Morando con tu campo è difficile perché ya it's standard. O primo posto è vagante, mo vedi un sorcemo fra me come guarda. A quando sono cresciuto cantante, questi filmi non sono che le annate. Chi vi rendo poltrone perché mano ci sto che mo stai solamente scappando. Che stessa che non è come che la di guaglio non si va fa soltanto prima. Ma mangio l'ogni sono in rabbia perché sti canzano cucina. Nu balla vega che sta che balla so giucana come messi in docam. Che tarandello so veramente più forte che mi ha avuto l'età. Sto giucana modalità facile perché so che te lo invado. In una cosa ma dorma l'erta sto fondando te sode. E se fumo e bevo ogni cosa sta sfruttando che mi scorda. Guardando, inquadrando, quadrando, papando con lama. A sova di vada gamada, da sova. Le sova di mano ci guarda. A sova, se sciupa fatica amara. Se va, se tembra quando cane cava. Di plastica, tu bordello di giada. In mastica, sempre magna che mana. Mastina diventa una scivava con una miscia con le tette di fuori. Chiudo fatto un coppa a mano che non fanno mai un guazzo. Sto guardando in aria, guardo come mi rilasso. Come vede nuovo Lamborghini quando catti. I macchiato solo che le cadono da catti. Giro pure solo senza tenere bodyguardi. In giro pure pedo pure in nuvola ma sa nembe. Un rap porta l'Android, tengo non so sono omonimo. Ma metti in fila però metti in fila i 50.000 persone ogni voto, yeah. Hamilton rindo circuito, David off rindo miscuglio. Per correre capace che sciuglio, dopo non tu trova nessuno, yeah. Sto giù con una modalità facile perché so che te lo invado. In una cosa ma dorma l'erta sto fondando te sode. E se fumo e bevo ogni cosa sta sfruttando che mi scorda. E dico sempre che è tutto a posto perché è tutto a posto. Passa una galera in danata galera in danno panamera. Andai giù rapies. Si mette a cadere vado a leve perché per le buone.